Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Qui la palla schizza verso Sau! Sau per la quarta volta segna San Siro. Sena carica al destro di Sena Andanovic, la palla rimane lì, Sau e poi Ekdal, subito il Cagliari in 11 contro 10 a trovare il gol. Ibarbo si lancia da solo praticamente, Ibarbo, grande giocata, Ibarbo mette dentro, ancora Ekdal, ancora Cagliari, 3-1, una super giocata di Ibarbo. Ibarbo dalla bandierina, palla dentro, salta ancora Cepitelli e la conclusione, il gol, ancora Cagliari. E poi è finita così, 8-0-0 24 0-0 24 349 238 6666, pomeriggio di orrori, quello di San Siro, pomeriggio che ruba la scena a tutto il resto. Anche se ci sarebbe il Milan, secondo pareggio consecutivo contro una neopromossa, quindi dopo Empoli non ha vinto nemmeno a Cesena e ha rischiato anche di perdere, ci sarebbe la Fiorentina che ha strappato un punto al Torino, ci sarebbe il Napoli che si è rialzato, però c'è il 4-1 con cui il Cagliari di Zeman ha umiliato, perché questo credo sia il termine giusto, l'Inter di Mazzarri, 4-1. Tripletta di Ekdal, che finora in carriera aveva segnato 4 gol in 91 partite, ne ha fatti 3 in 44 minuti. Ha una difesa che credo, almeno per quanto visto oggi, possa definirsi imbarazzante. 800 24 00 24, vi aspetto gli interisti delusi, aspetto tutti gli altri, quelli che magari vogliono ricordare ad esempio come in settimana si era molto parlato dei 4 motivi per cui l'Inter poteva sognare la Champions, 4 motivi come 4 gol del Cagliari. 800 24 00 24, Giorgio De Luca autore di questa puntata, Roby Scaltritti in regia, Dario Ricci a San Siro, ciao Dario. Ciao Giovanni. Da questo momento linea aperta con San Siro, raccontami cosa è stato nei primi 10 minuti il dopo partita, che immagino farà molto discutere, e poi sentiremo anche Mazzarri. Dario. Assolutamente, hai fatto una fotografia perfetta di quello che è stato il pomeriggio, degli orrori di San Siro, popolo nell'azzurro che ha cominciato a sfollare ben prima del fischio finale di Banti. Sul banco degli imputati proprio Walter Mazzarri, soprattutto per un atteggiamento dell'Inter che era apparsa da subito molle, poco concentrata, poco pronta a una sfida col Cagliari all'ultima spiaggia, doveva essere forse l'ultima partita di Zeman sulla panchina sarda, visto il terribile inizio di campionato. Ebbene, 90 minuti dopo ci troviamo con Mazzarri ancora al centro delle polemiche, sì. Un Inter che aveva cominciato a deludere ben prima, sì, della, sì, rete di Sau. Zeman, solita mina vagante, pronta ad esplodere in ogni momento. 800 24 00 24, saluto anche Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Però stai lì che ti faccio sentire subito l'altro grande deluso di oggi, Pippo Inzaghi. Pippo. Rimani in 10 con questo caldo, è difficile vincerla. Niente, dispiace perché questo gol ci ha complicato un po' la vita, poi abbiamo pareggiato, avremmo meritato forse di fare anche il secondo. Ecco, poi forse volevate quelli vedere questa, forse, perché pensate al fuorigioco. Sì, no, mi hanno detto che era in fuorigioco, però purtroppo è difficile fare guardaline e giocare sui centimetri, però mi dispiace perché se non fossimo andati sotto oggi probabilmente avremmo vinto, vabbè, capita, insomma, però la squadra come sempre non posso dire nulla perché insomma potevo dire hanno fatto una distrazione, però vedendo che il gol è irregolare, poi dopo ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo creato, abbiamo fatto gol, il loro portiere ha fatto anche delle belle parate. Poi giocando così è chiaro che forse il secondo tempo, quando ci sono venuto un po' meno, infatti ho fatto 2 cambi perché eravamo un po' lunghi. Sì, io non so con chi abbia parlato Pippo Inzaghi, questione di millimetri, di centimetri, non so se Succi fosse in fuorigioco in occasione della rete dell'1-0, so che domani si discuterà anche di un possibile rigore per il Cesena, già sull'1-0, rigore che invece il signor Guida non ha concesso. Carlo, questa è la fotografia della Milano del calcio oggi, no, vuoi dirmi qualcosa del fuorigioco? No, fuori gioco assolutamente. Magari no, dai, con chi avrà parlato Inzaghi, che gli ha detto che non era fuori gioco. Sentire il re del fuori gioco, il re del gioco sulla linea dell'offside che parla di millimetri in fuori gioco. No, bisogna prendere le partite come sono e non frammentarle come al solito. Il Milan ha deluso quanto l'Inter, è stato un pessimo Milan, credo. Sì, credo che il Milan, certamente oggi ha giocato meglio dell'Inter, ma sarebbe stato complicato fare peggio di una squadra, ripeto, l'Inter, che ha incassato 4 gol nei primi 44 minuti con anche calcio di rigore parato da Andanovic. Prego caro, ti abbiamo recuperato. No, dicevo che non c'è molta differenza tra la partita del Milan e quella dell'Inter. È chiaro che questa è una forzatura, però tutte e due le squadre hanno deluso tantissimo, perché non esiste frammentare la partita di Cesena in episodi. Il Milan è stato pessimo, credo che la confusione stia cominciando a diventare importante. Il modulo Torres Menez in questo momento è l'unico attaccante davvero di livello del Milan, e credo che intorno a Menez in questo momento Inzaghi debba cominciare a costruire una squadra. Non so se falso 9, non so quale modulo, però il Milan visto oggi a Cesena è stato pessimo, come è stata pessima l'Inter a San Siro. Quindi la classifica è lì a testimoniarlo e a dimostrarlo. Sono due squadre che in questo momento non hanno identità precisa, sono due squadre che in questo momento non hanno obiettivi precisi. È chiaro che tutti quanti eravamo a dire che l'Inter era la terza forza del campionato, che poteva essere davvero una squadra da piazzamento da Champions League. Oggi dobbiamo rivedere tutto. Sì, oggi la terza squadra è l'Udinese. Io vi leggo la classifica, Carlo, la leggo anche a te. L'Udinese non ha ancora giocato, perché poi sarà impegnata domani sera contro il Parma in casa alle ore 19. Beh, Juventus e Roma 15 punti, Udinese terza a quota 9. La prima notizia è che Juventus e Roma hanno già 6 punti di vantaggio sulla terza, ed è già un cratere. Guarda, Juventus e Roma è un altro campionato. Sì, però potevamo anche sperare in qualcosa di un po' più equilibrato. Non si chiedeva a Inter, Milan, Napoli di restare in alto fino alla fine. Juventus e Roma è un altro campionato. L'Udinese è lì per, direi, in maniera abbastanza circostanziale. Che contano sono le altre indiziate da un campionato di alto livello. Abbiamo fatto un culo così al Napoli, perché è partito male, adesso è a un punto da Milan e Inter. Oggi ha vinto come ha vinto a Sassuolo, con il Sassuolo a Reggio Emilia, va bene, è a un punto da Milan e Inter. La Fiorentina oggi ha pareggiato per grazia ricevuta e non riesce mai a segnare. Dunque è un campionato in cerca di una chiaramente in cerca di una terza, sì, forza. È un campionato di una mediocrità assoluta dietro le prime due, che invece giocano bene e che ci terranno compagnia fino a maggio. 800 24 00 24, io aspetto le vostre telefonate, poi sentiremo Mazzarri. Io sono curioso, Carlo, di sapere di che cosa parlerà oggi, perché è vero che c'è stata l'espulsione di Nagatomo sull'1-1, è arrivato subito dopo il gol del 2-1, però l'Inter si è letteralmente sciolta. Ti faccio sentire ancora qualche istante di Inzaghi. Un po' di lavoro ci sono, cioè bisogna dare un po' di tempo, perché il lavoro non si può ottenere dopo 3 o 4 partite, anche se penso che siamo sulla buona strada, vediamo gli altri, fanno tutta fatica, forse siamo al quarto posto, per cui insomma stiamo tranquilli e pensiamo a crescere, perché questo è quello che conta. Sì, fatica terribile, quella di Inzaghi di trovare lati positivi in questo avvio di campionato del Milan. 8 punti in 5 giornate, è vero, fondamentalmente in questo momento è quarta insieme all'Inter, insieme alla Sampdoria e insieme al Verona, sempre che la Samp non faccia punti questa sera. Però ripeto, Empoli-Cesena, 2 partite contro 2 neopromosse, 2 punti. 800 24 00 24, aspettiamo Mazzarri. Quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati. Sto rivedendo incredibili gli errori della difesa dell'Inter sui gol. 800 24 00 24. Intanto saluto Carlo Genta. Ciao Carlo, a domani. Ciao, a domani, ciao Giovanni. A domani dalle 14, subito San Siro, Dario Ricci. Dario. Eccoci Giovanni, con Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Beh Andrea, doveva essere l'ultima di Zeman. Qua invece sul banco degli imputati ci troviamo Mazzarri, un Inter imbarazzante, una difesa improponibile. Diciamo in poche parole, sembrava l'Inter dell'anno scorso. Sì, buonasera, sembra l'Inter dello scorso anno, di due anni fa. Dobbiamo ovviamente con questa partita buttare nel cestino tutte le cose che abbiamo scritto o detto nell'ultimo mese e tornare a dire che l'Inter oggi è stata vergognosamente perforabile in difesa, non soltanto per colpa dei difensori che comunque hanno sbagliato tutti e tre la partita clamorosamente, ma anche per colpa della copertura che non c'era dei centrocampisti, soprattutto dei due interni, dei due mezzali, Kovacic e Hernanes, che non hanno mai fatto i raddoppi che servivano sulle fasce. Il Cagliari ha vinto alla Zeman con le percussioni sulle fasce, i tagli, i cross al centro, i palloni rasoterra a tagliare fuori la difesa, cioè del modo più esemplare e semplice secondo il calcio di Zeman. Sì, tutto ampiamente prevedibile, del resto ce lo stanno anche scrivendo in tanti, lo sanno anche i Sassi come gioca il Cagliari di Zeman, ma Mazzarri è troppo bello e forte per abbassarsi al suo livello, c'è chi parla di dimissioni, c'è chi dice che Zeman è un maestro e doveva anche essere prevedibile che prima o poi il suo Cagliari esplodesse. C'è e mi piacerebbe capire che cosa ne pensate, soprattutto Andrea che vive l'Inter da dentro, ad esempio secondo me è da aprire un discorso anche su un pilastro come Vidic, di cui è stato detto e scritto essere uno dei volti forti e nuovi di questa squadra, però in queste prime 5 giornate ne ha messe in fila tante. Andrea, ti riporto la domanda di Giovanni in considerazione che stiamo facendo anche off record. Questo Vidic accolto come mamma santissima della difesa, per carità, curriculum che parlo da solo, ma in queste prime 5 giornate ne ha messe in fila parecchie e altrettante direi oggi. Ma guardate, anche questo è quasi un discorso aritmetico, cioè come nell'aritmetica ci sono delle leggi immutabili, 2 più 2 fa 4, anche nel calcio non si può pensare che certi giocatori arrivino nel nostro campionato a costo zero e pensare che abbiano ancora un valore tecnico e agonistico come ce l'avevano a 25 anni. Chiaramente se i vari Vidic, i vari Evra, i vari Ashley Cole, sto citando ecco questi grandi campioni che sono arrivati over 30, se arrivano in Italia a costo zero e i loro club, che sono tra i più importanti al mondo, li lasciano andare senza battere ciglio, è fin troppo evidente che non si tratta di giocatori che spostano gli equilibri. Di sicuro li spostano più in Inghilterra, ma se non li spostano più lì è ben difficile che li spostino qui. Vidic oggi è stato protagonista di un'altra prestazione sconcertante, ma ripeto, io non mi sorprendo. L'altro non si è visto. Vi posso far sentire Dario, vi posso far sentire le prime parole di Zeman, che ha un sorriso che non vi descrivo. Non ho mai parlato, quindi non c'è niente. Niente, va bene, Andrea Paventi, poi ce la racconti, c'è due diversi. Andrea. No, volevo sapere se era allora solo una questione di tempo la prestazione che abbiamo visto oggi del Cagliari o se è stata proprio un'unione di fattori che hanno reso questa partita come una partita perfetta per la sua squadra. Ma io ero sempre convinto che questa squadra può giocare a calcio. Oggi siamo venuti per giocarsela, magari in altre partite non ci siamo riusciti e ci davano per retrocessi già dopo 3 partite. Io penso che questa squadra ha dei valori e spero che riusciamo a migliorare e giocare sempre con la stessa intensità. C'era però obiettivamente un problema del gol, nel senso che avevate segnato abbastanza poco per quelle che sono le sue caratteristiche, la sua filosofia di allenatore e di gioco. Oggi sono arrivati tutti i gol che insomma, ne avete fatti soltanto 3. Questo come lo spiega? Cioè la ricerca della continuità, della fiducia, una squadra che sta bene fisicamente? No, a parte che stavamo bene fisicamente anche prima, il problema è che magari eravamo sempre preoccupati, pensando più a difendere che a attaccare, quando avevamo possesso della palla eravamo molto lenti e poi è normale che contro le difese chiuse poi non ci si arriva. Oggi ci abbiamo provato a giocarcela e siamo andati quando c'era occasione di andare e è andata bene. Sì, Zeman è un signore, perché poteva anche rispondere contro le difese chiuse, è difficile arrivare al gol, poi se ti capita un pomeriggio in cui trovi la difesa di oggi dell'Inter, 8-0-0-24-0-0-24, ne puoi anche fare 4 in 44 minuti. Dario, ti restituisco la palla per chiudere col tuo ospite, Dario. Sì, guarda, devo dirti, adesso Andrea è andato, sta ascoltando proprio le dichiarazioni di Zeman in attesa di Mazzarri, devo dirti che considerazione che Benza coppia con quella che facevi da studio, non si è visto un Cagliari sui ritmi zemaniani, si è visto anzi un Cagliari per alcuni aspetti anche attento, anche accorto, che ha fatto la sua partita ma quasi con giudizio, ha semplicemente giocato per il suo allenatore, cosa che in certe situazioni non è neppure scontata, quindi... devo dire l'unico, riallacciandoci alle parole di Zeman, il momento in cui forse la sfida poteva teoricamente riaprirsi è stato quando Andanovic ha parato il rigore, perché lì l'aspetto psicologico, a quel punto l'Inter però era già in 10 e sul 3-1 poteva ancora ribaltarsi, 40 secondi dopo è arrivato il 4-1 che ha messo in frigo il risultato, sì, per i tardi. Partita sbagliata da cima a fondo quella dell'Inter, Dario, però stai lì, se riesci ad avvicinare anche qualche altro collega, 800 24 00 24, ad esempio piacerebbe sapere come l'ha presa Tohir, che oggi è stato inquadrato più volte, non particolarmente sveglio ed entusiasta, nemmeno al gol del pareggio di Osvaldo, però sarebbe bello capire con che immagine torna di questa Inter in Indonesia. 800 24 00 24, Antonello dall'Aquila. Antonello, pronto? Eccomi. Sì, guardi, io sono un tifoso interista da molto tempo e questa volta non ce l'ho fatta più, ho telefonato perché sono veramente arrabbiato. Mazzarri, io non so come deve essere, è un incompetente, l'Inter gioca come gioca il Cagliari di Cera e di Riva, con i cross sulla difesa chiusa, ma basta, buttatelo fuori, non se ne può più con questo mentecatto incompetente. Sì, no, io capisco lo sfogo, Antonello, tra l'altro se sei tifoso dell'Inter sei abituato, credo da sempre, da tanto tempo a vivere una squadra che magari promette molto e poi si scioglie. A me di Mazzarri la cosa che colpisce di più è che questa è l'ennesima volta in cui manca la terza vittoria consecutiva in casa, e secondo me questa mancanza di continuità, non gli si chiedeva di andare a vincere al Bernabeu ma di battere il Cagliari in casa in un momento particolarmente importante della stagione dal punto di vista psicologico, questa mancanza di continuità è forse il capo d'accusa più importante. Roberto da Ravenna, Roberto. Buongiorno, un saluto a tutti. Prego. Due cose. Prima di tutto un saluto a tutti i tifosi di tutte le squadre di calcio, perché siamo tutti fratelli, chiamiamoci così. E poi un'altra cosa, un appello, vorrei fare un appello ai tifosi del Milan. Io sono tifoso del Milan, sono tifoso milanista da tanti anni. A questo punto, considerate le varie annate che sono passate, la società, come si comporta, gli acquisti, quello che ci raccontano, a questo punto io direi che forse disertare lo stadio possa essere l'unica cosa per far capire che è ora di darsi un po' una svegliata. Ultimamente delle gran partite non le ho viste, abbiamo fatto due belle partite, le prime due che abbiamo giocato sull'entusiasmo, ma c'è andata anche bene, perché a Empoli si poteva perdere tranquillamente, perché se Tavano non sbaglia quell'occasione, sì, che ha avuto, andiamo su 3-2 e siamo già a posto. Direi che è una squadra che non fa le coppe, gli altri anni c'era il problema, tra virgolette, dicevano che facevamo le coppe, allora facevano le coppe, dispersione di energia e non si... Sì, ma credo sia una squadra che fondamentalmente non ha grandissima qualità e poi ha un allenatore che giustamente chiede tempo per costruire un progetto tattico, meno giustamente sottolinea di essere quarto in classifica, perché comunque 8 punti in 5 partite mi sembra che sia alla fine un bilancio basso. Allegri un anno fa ne aveva anche meno, ma comunque Allegri sarebbe stato massacrato di critiche con l'inizio che ha fatto Inzaghi in questa stagione, e non parliamo poi di che cosa sta succedendo invece nell'altra sponda di Milano, che è quella di San Siro. Io torno proprio un attimo a San Siro, Dario Ricci, Dario, per vedere di chiudere un attimo, abbiamo sentito le prime parole di Zeman e mi pare di capire Mazzarri non arriverà molto in fretta ai microfoni. Sì, direi che stiamo tutti aspettando Walter Mazzarri, anche Andrea Sorrentino. Andrea, abbiamo sentito Zeman, secondo te Tohir come torna a casa a Giacarta? Tornerà a casa con le orecchie bassissime, ma secondo me il grave della partita di oggi, oltre ancor più forse del primo tempo giocato disastrosamente dal punto di vista tattico dall'Inter, c'è guardate il secondo tempo, in cui anche se in 10 contro 11 l'Inter doveva fare qualcosa di meglio e di più, soprattutto dal punto di vista del fuoco interno, che non c'è stato, e questo è molto preoccupante. Senti, si comincia a scartabellare, allora poi ieri comincia a scartabellare l'agenda per telefonare a chi? A De Boer, a... no, no, adesso... e tu vuoi fare subito il bombarone, no, è ancora presto secondo me. De Boer e financo Michael Laudrup erano degli allenatori che piacevano a Torino, risultava questo, però insomma aspettiamo un po', ecco. Sì, però essere qui il 28 settembre a parlare di un 4-1 casalingo col Cagliari e anche magari immaginare nomi al posto di Mazzarri è un po' l'esatta fotografia del pasticcio che ha combinato oggi l'Inter. 800 24 00 24, c'è già Giuseppe da Crotone che si è prenotato, ci fermiamo un attimo, torniamo subito. Servito Hamsik, regola del vantaggio, Higuain in area di rigore, Higuain si porta il pallone con la suola, verso Caglia, fonda la parte opposta, rialza la testa il Napoli con José Callejón. Noi stiamo lavorando molto bene ogni giorno, in ogni allenamento, e a volte noi si vede la partita, e a volte come oggi è stata una partita importante per noi, bene, bella, e abbiamo lavorato tanto e 3 punti importanti. Tutti convocati. Sta andando benissimo, è un leader. Non mi sono sentito così per dargli un turno di riposo oggi. È uno di quelli che probabilmente quando si è affaticato, chi fa calcio lo sa, non è per delucidità, non riesce a fare gli interventi come è di par suo. Questo è. Dico di lui perché me l'avete chiesto, ma non è solo lui che era sottotono. E ripeto, non assumo io la responsabilità perché sono abbastanza esperto, avrei dovuto cambiarne di più e di sicuro. Ci sono dei giocatori in questo periodo dell'anno che non possono reggere 3 partite di seguito, oggi lo abbiamo visto, purtroppo abbiamo preso questa brutta sconfitta, lasciamo perdere il 4-1, comunque ogni tanto nel calcio di Serie A c'è sempre la sorpresa, possiamo perdere in casa, l'importante è capire e ripartire subito con forza. Luca Marchegiani, Mazzarri vede nella stanchezza queste fisica sono le prime di parole di Mazzarri che adesso andiamo avanti a sentire, ha detto veniamo da un dispendio fisico notevole, ho fatto giocare alcuni che erano la terza, quarta partita consecutiva, non ho voluto cambiare nemmeno l'assetto tattico, il Cagliari è arrivato concentrato a San Siro e arrivava prima sul pallone, era più veemente, ha vinto meritatamente, abbiamo anche preso gol rocamboleschi. Ancora Mazzarri, facevi il portiere però è uguale, è un mix, la condizione fisica non è mai da sola in una persona, è tutto per fare calcio a questi livelli come sono i ritmi attuali, bisogna avere tutte le componenti al top, no? È il mezzo metro che perdi, se voi avete visto Balbo quando è venuto a Roma, mi ricordo se era il secondo o terzo gol, partire dal centrocampo non è che c'entra molto, ci sono dei giocatori che come si usa dire sono appannati, no? E in questo calcio basta il mezzo metro, basta non mettere bene il corpo, ti spostano e prendi gol, e non hai la forza di reagire perché non sei lucido. Oggi si è visto questo, sembravamo appannati tutti, l'ho visto dal primo minuto, poi per assurdo il secondo tempo, prima, a parte abbiamo fatto tutta la partita in 10, sotto di 4 gol non era facile nemmeno fare qualsiasi altra cosa, però il secondo tempo per assurdo si è giocato meglio, alcuni che il primo sì, tempo secondo tempo, bambolati. Questa è la lettura di Walter Mazzarri, io sottoscrivo quella che abbiamo sentito prima da Andrea Sorrentino, inviato della Repubblica con il nostro Dario Ricci, secondo tempo se vogliamo ancora più preoccupati del primo perché è mancata proprio la reazione, poi ovviamente il Cagliari si è placcato avendo chiuso 4-1 il primo tempo e la situazione è rimasta congelata così. 800 24 00 24, c'è chi scrive al 349 238 6666 e si chiede come ha fatto Mazzarri a non accorgersi durante la settimana che i giocatori erano così scarichi. Domanda interessante, magari glielo chiederanno e poi andremo a cogliere la risposta. Giuseppe da Crotone, Giuseppe. Sì, buonasera. Innanzitutto prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E volevo fare 2 considerazioni. La prima è che non sono d'accordo con il signor Carlo Genta, che saluto, che la maggior parte delle volte sono sempre d'accordo con lui, ma sul fatto che Inter e Milan abbiano giocato più o meno la stessa partita, al di là del risultato parlo io. Parlo proprio per il gol che abbiamo subito noi, che mi sembra una delle poche volte che non c'entra niente la nella fase difensiva, in quanto sia solo un errore del portiere di Cristian Abbiati. E poi vorrei sapere dal signor Inzaghi cosa significa cambiare un giocatore a 18-15 minuti dalla fine, quando già, tipo Esciaragui, quando già la squadra stava subendo da 15 minuti il pressing del Cesena. Sì, credo si chiamino tentativi di mettere comunque la partita fuori dai binari in cui si era incanalata. Tra l'altro Milan che ha chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Zapata, quindi ha anche rischiato parecchio nel finale. Però evidentemente quando ti chiami Milan, giochi a Cesena contro una neopromossa, c'è sempre la speranza di poter in qualche modo trovare un gol che ti regali la vittoria, magari il colpo di un singolo, così come il colpo di un singolo, in questo caso negativo, è stato l'errore di Abbiati. Però anche qui c'è un tratto che unisce l'Inter: tanti errori dai giocatori che in questo momento dovrebbero essere i capisaldi. Guido da Rimini, Guido. Sì, buongiorno. Prego. Fare solo due considerazioni su Mazzarri. Dopo aver sentito le sue dichiarazioni, secondo me la prestazione dell'Inter e anche la sua personale è ancora più aggravata, nel senso che l'Inter non ha preso gol rocamboleschi, ha preso gol ridicoli per una difesa che dovrebbe essere una difesa internazionale. E il secondo concetto che mi viene in mente è forse la malignità ma azzeccata di Moggi, quando disse che il campionato, dai a Mazzarri una squadra di fondo classifica, te la porta a centro classifica, dagli una squadra da scudetto, te la porta a centro classifica. Vi seguo dalla radio, grazie. Sì, io non so se aveva ragione Moggi, tra l'altro non credo nemmeno che questa squadra, l'Inter di quest'anno, sia una squadra da scudetto. Questa Inter mi sembra una squadra costruita per migliorare il quinto posto dell'anno scorso, così come quella dell'anno scorso era costruita per migliorare la classifica disastrosa con cui si era chiusa la stagione di stramaccioni. Mazzarri è riuscito bene nella prima parte del suo lavoro, non era nemmeno partito male quest'anno, ricordiamoci, e non possono aver sbagliato tutti, che comunque fino a 3 ore fa si parlava di una possibile terza forza del campionato, di una squadra che poteva avere prospettive verso una qualificazione alla Champions League. Certo che poi vedere quello che si è visto oggi a San Siro, con questi 4 gol presi dal Cagliari, con l'Inter che si è letteralmente sciolta in campo nel momento in cui doveva cambiare passo, beh, qualche domanda la fa venire. Poi c'è anche chi, Roberto, scrive sul banco degli imputati insieme a Mazzarri: mettete tutti i giornalisti che trattano il calcio come scienza esatta. Roberto, hai ragione, io per primo insieme a Carlo Gente in settimana abbiamo detto, e anche per Luigi Pardo, l'Inter può essere la terza forza del campionato. Però alzi la mano chi si immaginava un tracollo come quello di oggi, e io non capisco nemmeno come si faccia a parlare di problematiche fisiche. Avevi davanti l'ultima della classifica. Michele da Foggia. Michele. Sono Michele Pace da Foggia. Innanzitutto, prego, Michele. Vi ringrazio per la trasmissione che è veramente utile a noi tifosi. Io ho appena ascoltato il commento di Mazzarri e la cosa mi fa arrabbiare ancora di più, perché sono un super tifoso interista. Cioè, io vorrei chiedere a Mazzarri: le grandi rose a che cosa servono se lui mi va a dire che la squadra era stanca? Durante la settimana chi li allena? Lui li allena. Se aveva annotato che 2 o 3 elementi erano stanchi, poteva far giocare altri giocatori. Sì, c'è stata evidentemente una sottovalutazione di quello che era il momento della squadra. Mazzarri ha detto: me ne assumo la responsabilità, ho sbagliato. Però ripeto, davanti c'era il Cagliari. È vero che nel calcio di oggi basta mezzo metro per fare la differenza tra la vita e la morte, però è anche vero che credo quest'Inter avesse le carte in regola oggi per evitare lo spettacolo che si è visto. C'è anche Marco da Milano, ma c'è Montella che sta iniziando a rispondere ai microfoni di Sky Sport. Fiorentina 1-1 a Torino, risultato buono considerata l'emergenza, ma Fiorentina che comunque stenta a decollare. Sentiamo Montella. Non so se devo rispondere oppure aspettiamo la domanda. Come vuole. Soprattutto complimenti, perché non era una domanda. Vai, con un attacco falcidiato, sotto di un gol, con un attacco falcidiato, è riuscito insomma a raggiungere questo pareggio con i due ragazzi che giocavano insieme anche nelle giovanili, Babacare e Bernardeschi. Il problema oggi forse è stato quello: arrivare fino alla 3/4 e poi avere difficoltà nel concludere. È per questo che chiedeva magari ai centrocampisti di tirare da fuori. Sì, insomma, se analizzando la partita credo che la squadra abbia fatto una abbia condotto la partita dall'inizio alla fine. Poi davvero, se trovi le squadre che con 10 giocatori ti aspettano gli ultimi 35 metri diventa difficile per tutti, se non hai la giocata come in questo caso su un calcio da fermo di sbloccare la partita, le cose possono cambiare. Abbiamo creato 3 o 4 occasioni nel primo tempo. Nel secondo tempo la partita era andata avanti sullo stesso filone, nel contempo abbiamo concesso inevitabilmente dei contropiedi al Torino dove è andato vicino al gol e ci poteva far male. Ci siamo smarriti per 5 minuti dopo il gol, poi la squadra ha avuto una difficoltà immensa la forza di riagguantare questo pareggio che quantomeno ci va stretto, però la squadra ha dimostrato di non aver voglia di perdere, di arrivare al risultato attraverso il metodo di gioco in cui crediamo tutti, e queste sono le cose positive. Dentro questo c'è anche la lieta nota di Babacar e Bernardeschi che hanno affezionato il pareggio, e credo che questo dia loro, così come all'attacco e alla squadra, quella spensieratezza negli ultimi 20 metri di cui ha necessariamente bisogno. Sì, tra mille problemi che ha la Fiorentina, alla fine i 6 punti nelle prime 5 giornate e comunque essere lì, non lontani dalla zona, quella che porta al terzo, al quarto, al quinto posto, è comunque una buona notizia, perché se c'è un allenatore che ha degli alibi, ha delle giustificazioni per parlare anche di eventuali delusioni, certamente Montella è questo, e oggi comunque ha portato a casa un punto importante a Torino, e tra l'altro un punto di rimonta. 800 24 00 24 Marco da Milano. Marco. Sì, buongiorno. Prego. Io avevo telefonato inizialmente per fare una ipercritica sulla partita del Milan. Sì. Poi ho sentito un vostro ascoltatore che diceva è ora che la società si svegli, allora ho cambiato l'intervento che volevo fare, perché secondo me la società è sveglissima e sa benissimo qual è la situazione. Forse sono i tifosi che si devono dare una svegliata e capire che con questi, chiamiamoli onesti predatori, perché più di onesti predatori non sono, non è che possiamo andare da nessuna parte. Cioè, io credo che 2 partite vinte con Lazio e Parma hanno illuso un po' troppa gente di aver fatto chissà che cosa. Secondo me il Milan quest'anno può battere la Lazio, il Parma, magari fa il miracolo e batte anche la Roma, per dire. Però può anche perdere con Empoli e Genoa. Sì, il problema però, Marco, sono le aspettative. 10 giorni fa, dopo quell'avvio, dopo quelle prime partite, c'è chi anche ha fatto girare la parola scudetto, salvo poi innescare con una battuta comunque una settimana di critiche, di polemiche. Ci stiamo riferendo ovviamente a Silvio Berlusconi, volontariamente o involontariamente. Il mondo Milan è anche questo, lo abbiamo sentito prima Inzaghi, chiede tempo, però al Milan di tempo non ce n'è tanto, questo è un problema che è per tutte le grandi, è un problema che in questo momento ha evidentemente anche Mazzarri a maggior ragione. Niccolò da Milano, Niccolò. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo intervenire su quanto detto precedentemente riguardo ai parametri zero, sì, dell'Inter, in Italia, sì, in generale dell'Inter. In generale, non sono propriamente d'accordo con quanto detto, ci sono esempi anche di parametri zero. Pirlo, Pogba, che hanno poi fatto la differenza. Io credo che qui il problema di Vidic, che secondo me in assoluto è forse il miglior difensore del campionato italiano, è un problema di contesto. Cioè, per un difensore, a meno che non sia Baresi o Thiago Silva, o possiamo metterne pochi negli ultimi 20 anni, la differenza da solo non la fa. La fa il contesto in cui è. Chiaramente, se si è in un contesto di difficoltà, ci può stare ogni tanto di fare degli svarioni. Sì, però nel caso di Vidic il conto che si faceva era, vado a memoria, rigore procurato ed espulsione nella prima giornata, poi sull'espulsione possiamo discutere, il regalo a Palermo che ha messo in salita la partita dell'Inter, anche oggi c'è un calcio di rigore su Sau che per carità sarà andato in difficoltà Vidic perché era in difficoltà tutta l'Inter e tutto il reparto, però evidentemente è un rigore plateale anche nei modi in cui è stato provocato. Ecco, il ragionamento che si faceva su Vidic era questo. No, certo, è chiaro che non è partito bene la partita col Palermo, poi dopo l'erroraccio secondo me è stato migliore in campo, ha quasi fatto fare 2 gol, però non credo che sia un pro, secondo me visto il livello attuale del calcio italiano, questi giocatori che arrivano, Vidic e Vrà ci stanno assolutamente. Sì, ma anche Menez visto in partenza, Menez in questo momento è l'anima del Milan, però forse li abbiamo caricati di troppe aspettative, sbagliando noi. Tutti convocati. Adesso vede Lichsteiner, eccola Lichsteiner, la conclusione della porta vuota, gol, gol, gol, gol! 5 su 5 di Geronimo, 5 su 5 di Geronimo, 5 gol su 5 palline di Geronimo, la Juve gol! Palla verso destro, stop del pallone, tiro, gol! Visto fuori il portiere, dalla tre quarti ha stoppato il pallone e poi l'ha mandato verso la porta, ha tirato da casa sua. Marchisio, preciso, Perebra, la mette giù, limite della rigore, Tevez, carica adesso, Tevez, gol! Aggrappiamoci a Juventus e Roma, perché leggo la classifica: Juve-Roma 15 punti, Udinese 9. È vero che l'Udinese deve ancora giocare domani sera, ma in questo momento tra Juventus e Roma e la terza in classifica ci sono 6 punti. Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore. Ciao a tutti, ciao. Poi domenica prossima ore 18 saremo qui a raccontare Juventus-Roma, primo incrocio. Il punto è che è solo l'Udinese quella che può incrementare, di quelle che stanno dietro nessuno, cioè dalla Sampdoria... Sampdoria è l'unica, pardon, oltre l'Udinese che può incrementare, delle altre tutte ferme: Inter, Milan, Verona, Napoli, Fiorentina, il Genoa che poi a 5 punti potrebbe arrivare a 8. Sì, che tradotto significa che in 5 giornate Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, diciamo quelle che potevano essere le squadre più titolate a stare vicino alle due bellissime, hanno la metà più o meno, una è un punto in più, una è un punto in meno, la metà dei punti di Juventus e Roma, che arrivano come? Perché questa sarà una settimana particolare, molto lunga, c'è in mezzo la Champions, però è inutile negarlo, noi stiamo già pensando anche a quello che succede domenica prossima. Beh, dipenderà molto dalla Champions, dico sinceramente, il campionato è una storia a sé e sicuramente... Entrambe hanno fatto un ottimo turnover, arrivano a questo appuntamento con capacità psicologiche e fisiche ad altissimo livello, però inciderà moltissimo quello che è un confronto molto importante per entrambe, devo dire, in questo turno infrasettimanale di Champions. Ieri ho visto due partite, dallo svolgimento se vogliamo abbastanza prevedibile, nel senso che secondo me era prevedibile che comunque contro Verona e Atalanta ci sarebbe stata la sofferenza, ed era anche prevedibile che poi tutto sarebbe stato deciso da alcuni grandi numeri, alcuni grandi colpi. Nel caso della Juventus c'è anche la parata di Buffon sul calcio di rigore di Dennis, però questo mi sembra un po' il tratto di questo inizio di campionato di Roma e Juventus. Sì, il tratto di due squadre nate, costruite per essere vincenti, cioè dalla scorsa stagione a quest'anno possiamo dire che la Juventus è riuscita a mantenere un telaio intatto, riuscendo a difendere giocatori importanti come Vidal e Pogba, riuscita a inserire anche un giocatore come Morata, appunto, che è andato a segno, e insomma l'abbiamo vista persino trasformata come fisionomia dallo stesso Allegri, ma con la stessa vispugnandi, cioè con la stessa capacità di entrare in campo sin dal primo minuto per vincere la partita. La Roma invece ha fatto ancora di più, è riuscita in qualche modo a colmare quel gap di differenza che la vedeva a volte a corrente alternata, soprattutto contro squadre di media taratura. Adesso c'è una concentrazione da parte dei giallorossi che è proiettata proprio al traguardo finale, quindi allo scudetto. Quindi diciamo sono sicuramente le due migliori formazioni e lo stanno dimostrando a tutti i costi in campionato. Mi chiedo anche quanto peserà poi la partita di domenica prossima. Ricordo, nei 3 anni di Conte, tra ottobre e novembre, ma soprattutto ottobre, la Juventus ha sempre ospitato quella che sulla carta doveva essere l'avversaria per lottare per lo scudetto, e al di là della vittoria ha sempre usato queste partite per dare dei segnali particolari: il 2-0 al Napoli, il 3-0 sempre al Napoli, cioè per entrare anche nella testa degli avversari. Io non so se Allegri abbia questo tipo di impostazione, così come Conte feroce nell'aggredire queste partite, però credo andrà passata con la lente d'ingrandimento la partita di domenica prossima. Beh sì, perché comunque l'ultima impressione che la Roma ha lasciato alla Juventus Stadium non è stata positiva, tutt'altro, con la squadra messa sotto anche da un punto di vista proprio di mentalità. Quindi è qua adesso il vero salto di qualità, quindi al di là della Champions, che è sicuramente è importante, bisogna misurare la Roma proprio a questa prova, allo Juventus Stadium, per capire se riuscirà a fare la Juventus alla pari o se avrà ancora quel gap psicologico più che altro, e non tecnico, che invece che ha avuto nella scorsa stagione. La partita della scorsa stagione non ha avuto, ricordiamocelo, con la Roma sempre sotto, insomma, dal primo minuto incapace di reagire a forza degli avversari. La Juventus imposterà di nuovo sicuramente sul ritmo la partita, bisognerà vedere che impatto avrà la Roma, e quella la differenza rispetto all'anno scorso sarà tutta lì. Cosa ne pensi del suicidio dell'Inter di oggi? Ma insomma, possiamo dare anche qualche attenuante. Lui, Mazzari, ha parlato di un turnover che non è riuscito a effettuare, ha sbagliato lui, si è preso con responsabilità le colpe, però chiaramente insomma l'espulsione di Nagatomo, la squadra era sull'1-1, immediatamente il 2-1 di Ekdal, un Cagliari sicuramente cambiato, si è vista finalmente la mano di Zeman, con la squadra che attacca diciamo con un pieno organico, che punta molto sulla fase offensiva, e quindi un Cagliari completamente diverso. Però l'Inter era ferma soprattutto in difesa, Vidic non era in condizione. Sì, era la partita sbagliata per avere problemi fisici, di tenuta, esatto. Tutto quello che ha detto, giustamente scrivono gli amici da casa, ma se lo sapeva, se aveva il sospetto, ma perché esporsi a questo tipo di primo tempo sconcertante? Direttore De Paolo, io ti rubo ancora un minuto, ti faccio sentire Marotta di ieri sera, perché poi sul Corriere dello Sport siete stati duri sulla questione Lotito Marotta. Marotta ieri. Le chiedo se ha letto le dichiarazioni offensive del presidente Lazio Lotito, le chiedo la sua reazione e se vuole anche commentarle. Ma non commento, perché sono frasi che si commentano da sole, per cui dico che è inutile parlarne, se ne è già parlato troppo. Io sono un uomo di calcio, preferisco parlare di calcio. Se ne è parlato troppo? Beh sì, sinceramente, guarda, siamo stati, è vero, duri, però ecco, il punto è che non ci piace dover sottolineare la maleducazione e l'inciviltà, fare delle battute su diciamo la fisicità delle persone veramente di un bassissimo livello, quindi mi fermerei lì, non indagherei di più. Sappiamo che non è la prima volta che Lotito casca in queste frasi infelici, speriamo che sia l'ultima. E sappiamo anche che difficilmente porterà a qualcosa. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. 800 24 00 24. Adesso arriva anche Pardo, Bet Corner. Quote e pronostici. Questa sera alle 20.45 è tempo del primo derby stagionale, è il derby di Genova, è il derby della lanterna a catalizzare le attenzioni di questa quinta giornata di Serie A, e vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, il successo del Genoa che gioca in casa, è quotato 2,70, l'X è a 3,15, il 2 invece, con il successo della Samp che è favorita per questa partita, è quotato 2,65, interessanti anche le quote del gol, quotato 1,87, e del no gol, quotato 1,83. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore di questa partita. Nella Genoa spiccano i nomi di Matri e Piniglia, quotati 7, Perotti è quotato 10, nella Samp occhio alla quota di Okaka, quotato 5, Gabbiadini e Eder invece sono quotati 8, più alta la quota di Berghessio quotato 10. Questa sera diamo un occhio anche al calcio internazionale, perché scende in campo la Liga con la gara tra Cordoba ed Espanyol in programma alle 21. L'1, la vittoria di padrone di casa, è quotata 2,75, l'X è a 3,20, il 2 invece è quotato 2,55. Questa era l'ultima delle quote snai di oggi, a risentirci a domani. Convocati. Probabilmente ho sbagliato alcune valutazioni di turnover, cioè, siccome la squadra 3 giorni fa si è espressa benissimo, secondo me stava crescendo, non ho guardato troppo l'aspetto fisico, al dispendio di energie che nel calcio moderno è fondamentale. E per cercare di tenere certi meccanismi ho fatto giocare alcuni giocatori che erano alla terza, quarta partita, erano troppi e si è visto, il Cagliari era più veemente. Così ha parlato, così ha cercato di parlare Walter Mazzarri circa mezz'ora fa, per provare a dare una forma, per provare a dare una spiegazione a questa cosa. Inter 1, Cagliari 4, tutto nel primo tempo, tutti nei primi 44 minuti, con anche un calcio di rigore sbagliato dal Cagliari parato da Andanovic. Con la sensazione, insomma, che l'Inter abbia promesso molto anche quest'anno, ma sia incostante come troppo spesso le è accaduto, e come soprattutto è accaduto nelle ultime due stagioni. Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Come te la spieghi? Ah, benissimo, un po' meno agli amici interisti che ci stanno chiamando. Sì. 800 24 00 24, ti risparmio gli insulti a Mazzarri, le richieste di dimissioni, le domande secondo me anche legittime su perché un allenatore si presenta dopo la partita dicendo che erano stanchi quando li ha avuti in mano per tutta la settimana? No, è chiaro che quello che dice Mazzarri è una, da un certo punto di vista è da apprezzare, perché comunque è una presa di posizione e un'assunzione di responsabilità onesta. Dall'altra però, appunto, è un'assunzione di responsabilità molto precisa, praticamente dice ho sbagliato io e ripeto, io questa preferisco questo agli allenatori che cercano sempre giustificazioni esterne, quindi apprezzo questa volta il punto di vista di Mazzarri che si prende la responsabilità, e poi rimane la realtà del campo. Poi c'è anche l'avversario, perché poi l'altro giorno giocavamo, scherzavamo su Zeman eccetera, oggi si è vista veramente una grandissima squadra, e spesso nella carriera di questi allenatori, diciamo così, un po' particolari, un po' estremi, c'è un momento che è un Big Bang, in cui improvvisamente la squadra comincia a recepire, come se metabolizzasse d'improvviso quello che viene spiegato, magari è un po' più difficile rispetto ad altri allenatori, oppure semplicemente magari la gamba comincia a trovare una certa velocità dopo i carichi di lavoro pesantissimi che sono stati fatti durante la preparazione. Quello che auguro ovviamente a Zeman e ai tifosi del Cagliari, sì. Quello che è successo per esempio quest'anno a Bielsa, Marsiglia, che dopo 3 giornate era in piena zona di retrocessione, adesso è in testa alla classifica, quindi... e non smette più di vincere, per carità. Pier, sono già di vedere se il Cagliari poi da questa vittoria troverà energie per ripartire molto forte. Oggi c'è una partita perfetta. Sì, partita certo, perfetta, ma anche aiutata in maniera notevole, secondo me, al di là degli errori, perché poi il primo gol è da non far vedere nelle scuole calcio, e non solo quello, aiutata anche da un approccio dell'Inter assolutamente inadeguato all'importanza di questa domenica, che doveva portare l'Inter al terzo posto, laddove oggi c'è l'Udinese e ci sarà a prescindere dal risultato di domani. Questo è qualcosa di difficile da capire. L'Inter di Mazzarri non ha mai vinto, e non l'ha fatto nemmeno questa volta, 3 partite consecutive in casa. E di chi è la responsabilità di dare continuità a un progetto, se non dell'allenatore, Pier? E ripeto, non aveva davanti il Real Madrid, non gli si chiedeva di andare a vincere al Bernabeu. Sicuramente, guarda, per ora l'Inter aveva lanciato dei segnali incoraggianti, non mi ricordo, non è che mi dimentico quello che ho detto appena 2 giorni sì, fa. Sì, non possiamo, insomma, rimangiarci tutto, appunto, anche se si fa fatica. La sensazione era, in qualche modo rimane, quella di un progetto interessante in crescita, di una squadra molto più strutturata rispetto al passato. La sconfitta di oggi è chiaro che rimescola tutto. Io ho visto però una quantità di errori, anche individuali, una serie abbastanza incredibile di situazioni che mi lasciano pensare che sia stato un episodio. È un episodio che rallenta moltissimo il cammino e che rischia di di cambiare completamente anche gli equilibri psicologici. Sottolineavamo all'inizio della stagione che uno dei problemi di Mazzarri era il fatto che, a differenza di Inzaghi, che comunque vive di una luna di miele con i tifosi del Milan che gli deriva dal passato, lui affronta questa stagione ha già della scetticità che lo accompagna, scetticismo che lo accompagna. Scrivono in tanti: manca il vero leader all'Inter, la difesa dell'Inter è emozionante. Lorenzo, credo sia un tifoso juventino. 800 24 00 24, noi stiamo qui fino alle 19, per Luigi Pardo è a Genova perché questa sera racconterà per Mediaset Premium il derby della Lanterna. Massimo dalla provincia di Lucca. Massimo, sì, buonasera a tutti. Prego. Io volevo soltanto dire, da tifoso interista da una cinquantina d'anni, che la difesa dell'Inter mi ricorda molto quella che Gianni Brera definiva la difesa a presepe, ovvero tante statuine e passano tutti. Questo per dire, e se fosse ancora vivo tutto sommato si sarebbe fatto quattro risate. Sì, si sarebbe divertito. In secondo luogo, una difesa che quella di oggi va a rimpiangere Ranocchia, che quest'anno si difende, non diventerà mai un mostro, è già tutto dire. Sì, Ranocchia che ha saltato per infortunio, comunque è stato tenuto fuori precauzionalmente da Mazzarri. C'è Ausilio intanto che sta parlando, magari proviamo a sentire qualche secondo. Ausilio. Di rigore che con cattiveria magari diversa, con una giusta attenzione potevano essere evitati, questo sì. Sì, potevano essere evitati con un po' più di cattiveria e un po' più di attenzione. Claudia dalla provincia di Teramo, poi risponde Pierluigi. Claudia. Pronto? Prego. Pronto, buonasera. Senta, io sono tifosissima dell'Inter da quando ero piccolina. Sì. E mia madre era tifosa del Cagliari e naturalmente mi faceva sempre scrivere le letterine a Gigi Riva, perché negli anni 70 Riva era grandissimo. E io col Cagliari ho sempre avuto una specie di... cioè l'Inter quando ha giocato col Cagliari ha perso sempre, ma fatto... io l'ho detto anche a mio figlio, adesso c'è un figlio di 24 sì. anni. Mamma, quando l'Inter giocava, che ero piccolina, col Cagliari l'Inter perdeva sempre, io mi mettevo a piangere. Ma lei scriva adesso una lettera a Zeman, perché Gigi Riva ovviamente stiamo parlando del passato, però provi a scrivere una letterina a Zeman, cosa scriverebbe oggi dopo aver visto quello che è successo a San Siro? La prima squadra che secondo me avessero, cioè del Cagliari, mi dispiace, perché io sono anche gli scriverebbe anche, questo? Sì, perché io sono anche tifosa del Pescara, infatti qualche volta sono andata terribile. A vederlo. Pier. E, sì, sono anche tifosa del Pescara, però Zeman non, sinceramente sì, non le piace. Pier, meno male che gli scrive la letterina. Ma guarda, Zeman è un grande punto interrogativo, nel senso che è il classico allenatore che non si piega agli eventi, quindi se i giocatori riescono a, in qualche modo a vivere i suoi insegnamenti con l'entusiasmo, con la passione, cioè se scatta il feeling, Zeman per me è un allenatore che soprattutto a quel livello lì è dimostrato può fare molto bene. Se invece i rapporti non, insomma, lui passo il passo, il compromesso non lo fa. Sì, non c'è. Quindi, la via di mezzo. Non c'è la via di mezzo. La partita di oggi è una partita che può essere quella della svolta per il Cagliari, sicuramente da ultimo in classifica ha giocato una partita oggi con una maturità e devo anche dire che nel secondo tempo ha avuto una capacità secondo me da sottolineare, no? Nel senso che è riuscita comunque a blindarsi, a proteggersi, sì, di controllare, perché in tanti si aspettavano adesso chissà cosa succede il secondo tempo, invece è stato un secondo tempo normalizzato, quasi non da Zeman, Pier. C'è il traffico, torniamo subito, traffico. Sono tutte cazzate. Shit. Sì, Malachia, 100% Malachia. Tutti convocati. 800 24 00 24, insieme a Inter, Milan e Sampdoria, vediamo dopo il derby di questa sera con il Genoa, insieme a queste tre a quota 8, sai chi c'è, Pierluigi Pardo? Il Milan. No, insieme a Inter, Milan e Sampdoria c'è il Verona. Mandorlini, eccolo là. Lo salutiamo. Ciao mister, buonasera. Buonasera a tutti. Beh, visto come sta andando, si può cominciare a progettare una stagione guardando su e non giù. No, scherzo, lo so che la risposta sì, sarà. Ma non lo so, adesso guardando la classifica è ancora buona, anche se ieri insomma, abbiamo perso, però vedi che insomma abbiamo visto anche i risultati di oggi, partite facili, ce ne sono poche, e quindi siamo contenti, siamo ancora della parte della classifica che conta e va bene così. sì, difficile immaginare i risultati di oggi, soprattutto quello dell'Inter, difficile anche per gli allenatori, perché poi noi ci stiamo interrogando anche su quello che ha detto Mazzarri dopo, che ha detto io sospettavo, ho paura, problemi fisici, un po' di stanchezza. Poi chi non vive il campo dice, come noi, dice ma com'è possibile che tu, se te ne sei accorto, non prepari diversamente la partita? Invece a volte anche a voi può capitare di trovare poi un pomeriggio in cui vi esplode in mano la situazione. Ma più che altro a noi, credo che al di là della preparazione della partita, insomma, io ho fatto anche il giocatore, ho avuto quella fortuna lì, a volte vai in campo e hai delle giornatacce, adesso non so, ognuno guarda a casa sua, quindi non so quello che può essere successo ai giocatori dell'Inter, però insomma in primo tempo così ero in macchina, stavo tornando a casa, insomma un primo tempo 4-1, un rigore sbagliato, sicuramente tante cose non sono andate per il verso giusto, poi la stanchezza, il turnover, tante, si può dire di tutto di più, però indubbiamente in 45 minuti credo che una squadra come l'Inter, quindi parlo anche un po' più da tifoso, qui fa fatica insomma a pensare di prendere 4 gol in casa col Cagliari con un rigore sbagliato, quindi sì, sicuramente tante cose non sono andate per il verso giusto, sì, oppure possiamo dire che sono andate proprio al contrario. Piero? Sì, io vorrei che il mister ci desse una, non dico un pronostico, ma insomma una sensazione. Lui ha giocato ieri contro la Roma, la grande domanda che ci porteremo fino a domenica prossima e poi magari anche per buona parte della stagione è se la distanza fra queste due è stata colmata. Volevo capire che sensazioni aveva. Ma questo punto di vista. Sì, sì, ma io l'ho sempre detto, non ho ancora affrontato la Juve, però insomma ho visto ieri, lo so, anche insomma quello che è stata la campagna acquisti, quant'altro, la partenza, insomma sono avvicinate, sono quasi pari. Io do ancora un leggero vantaggio alla Juventus primo, insomma, per questa partita, perché credo che il fattore campo comunque incide sempre, e secondo perché hanno vinto, continuano a vincere e questo ti dà fiducia, e quindi leggerissimo vantaggio ancora ce l'ho dato alla Juventus, però credo che la Roma sia proprio lì pronta, poi dipenderà da tanti fattori, ecco. Allenatore fortunato Garcia, che può pescare dalla panchina Florenzi, anche destro in fondo, non è uno dei primi tre se domani mattina dovesse giocare la finale di Champions League, poi sono i colpi di questi due che ribaltano una partita complicatissima, sì, come quella di ieri. Ma io ho sentito tante cose, credo che noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, perché se queste squadre qui, credo che ho visto tante partite anche di squadre più importanti della nostra, quindi con valori tecnici superiori, insomma non si affrontano mai la Roma o la Juve, insomma in campo aperto, così a viso aperto, credo che a viso aperto perdi di più e perdi prima, quindi non lo so, noi abbiamo fatto la nostra partita, credo che è stata buona, poi si può parlare, come qualcuno ha detto, di catenaccio meno, ma noi abbiamo chiuso delle di gioco e è chiaro che la ce la fai soltanto se stai dietro la linea della palla, poi si può dire di tutto di più, però credo che loro hanno trovato grandi difficoltà, però la qualità tecnica in una partita di calcio, come un errore, come tante altre cose, ci sta, e noi, loro hanno vinto perché hanno trovato queste cose qui, quindi sono stati bravi. Sì, non so Pier se hai sentito ieri l'arrabbiatura di Mandorlini sul catenaccio, te la faccio sentire, sì, così poi ce la spiega, perché non è offensivo parlare di catenaccio, quindi poi ci spiega bene perché ieri se l'è presa, al di là dell'adrenalina della partita. Un po', me lo lasci dire, un po' un catenaccio vecchia maniera, era questa un po' la sua idea di partita? Ma lei la conosce il catenaccio vecchia maniera, l'ha mai visto? Sa di cosa parla? Allora lei vede quello che vede, che lei il catenaccio vecchia maniera non sa neanche da che parte sta. Fa la domanda e poi va via, cioè, lei non è lei è poco educato e parla di catenaccio, ma lei non sa neanche di cosa stiamo parlando, dai. Oh mister, ci aiuta a capire perché se l'è presa così tanto? No, innanzitutto me la sono presa perché era un telecronista romano, quindi fa sempre queste domande qui del cavolo, sembra sempre che al mondo c'è solo la Roma che giochi un calcio così ultra offensivo, tutti lì, e gli altri sono dei poveretti che si devono chiudere, quando credo che una delle forze, magari fossimo così, l'avrei fatto per altri 20 minuti, catenaccio, se mi potevo, sì, potevo portare a casa i punti, ma no, ci sono sempre queste provocazioni, forse ho sbagliato io, non devo dare, insomma, però credo che bisogna essere un po' più rispettosi di quello che ha detto lui, anche un po' più equilibrati nel dire le cose, perché io ho visto tante di partite, tante squadre più importanti, ripeto, della nostra, e quando si incontra una squadra più forte di valori tecnici e quant'altro, bisogna essere rispettosi di quello, e noi nel rispetto dei valori della Roma abbiamo fatto una partita chiusa e di ripartenza, di contropiede, quello che poteva essere il calcio di una volta che ha fatto grandi le grandi squadre, una di queste anche la mia Inter. Quindi non c'è nessuno, io non ho nessuna vergogna di dire magari avessi potuto portare avanti ancora il catenaccio. Sì, non si offende se dicono provinciale Pierre, altri sì, si sono offesi. C'è grande confusione, nel senso che poi spesso si scambia il calcio estetico per la qualità. Secondo me esistono squadre più organizzate e squadre meno organizzate. Poi è chiaro che credo che l'ambizione di qualsiasi allenatore sia quella di poter imporre il proprio gioco per 90 minuti, di essere padroni del campo e padroni del gioco, come dice Berlusconi, e come è stato il Milan in alcuni anni. Però questa cosa qui dipende anche dalle qualità che hai. Ieri il Verona ha fatto una partita, direi più che sufficiente, una partita ottima in fase di... E chiaramente la Roma un po' ti schiaccia, ma non credo che fosse una scelta. No, bravo. No, e poi comunque qualche ripartenza c'è stata, ma che devi fare? Cioè adesso veramente diventa così come ovviamente dal punto di vista della Roma la chiave è stata trovare il primo gol, perché dopo il primo gol l'Hellas un po' è salita e la Roma ha trovato degli spazi, c'era Cervinho che andava più veloce dell'autovelox, cioè è stato stanziato l'autovelox, quindi ma mi è sembrata molto molto normale come situazione. Sì, ma no? Difatti è difficile fare complimenti alla Roma e allo stesso tempo criticare ad esempio se una squadra come il Verona, ma saranno in tanti, credo che l'Olimpico giocheranno così, fa una partita attenta, organizzata, tra l'altro va anche vicina a vincerla, perché diciamo la verità mister, a un certo punto lei magari la bocca se l'è fatta vedendo che davanti arrivavate al tiro. Ma io sono un po' molto sincero, quello che ho visto. Noi dovevamo fare questa partita qui, non potevamo concedere tante linee di passaggio, soprattutto centralmente. Loro venivano tutti dentro così e noi non abbiamo rischiato, soprattutto nel primo tempo, a parte un cross che insomma, non pensavo mai di subire, perché insomma centralmente loro non hanno giocatori fisicamente, invece abbiamo subito solo un colpo di testa di destro. E invece siamo andati 2-3 volte, anche 4, insomma molto molto pericolosi. Ecco, l'unica cosa così, nel secondo tempo non siamo ripartiti più con grande continuità, anche se forse un'altra palla importante l'abbiamo avuta proprio un po' prima di prendere il gol. E poi si può dire tutto di più. Io credo comunque il nostro, noi abbiamo voluto fare quella partita lì e abbiamo interpretato questo tipo di calcio. Non lo so, averne fatto un altro, secondo me, forse guardando anche le caratteristiche della mia squadra, forse potevamo avere più situazioni offensive, ma forse ne rischiavamo tantissimi di più davanti. E non so se sì, e magari l'avrebbero criticata per altri motivi, insomma, per essersi presentato un po' troppo spensierato. Noi sappiamo che in questo momento non possiamo permetterci di andare a concedere tanto campo alla Roma e anche in generale a qualsiasi squadra. Io non lo so quello che sarà, però adesso è così. Poi magari un altro tipo di condizione anche per la stessa partita, indipendentemente da tutto, anche ieri abbiamo dovuto cambiare tanti giocatori, abbiamo avuto tanti infortuni, quindi abbiamo dovuto anche fare tu, e io sono contento della prova della squadra. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Mandorlini. Pier, stai lì, poi ci vediamo chi può concedere campo alla Roma, ad esempio il Manchester, dai, torniamo subito. Liverpool. Convocati. Abbiamo fatto prima un amichevole e l'abbiamo pareggiata, poi la Samp ha vinto 2 partite su 3, per cui l'altra volta aveva perso una partita e adesso si è arrivato a vinte 2. Presidente Preziosi ha perso 2 partite su 3 e sta sopra lacrimando. So che abbiamo giocato a carte e ho vinto, basta. Ferrero dice un sacco di bugie, anzi, ma proprio tante bugie. Abbiamo fatto questa partitina perché ogni tanto mi sfida. non si vede che ha voglia di sfidarmi. Beh, questo è il gioco delle tre carte, avanti popolo. Dico io 5-0 praticamente, non ha vinto niente. È come giocare con i bambini, come rubare la marmellata ai bambini. Cioè giocare con Ferrero è come rubare la marmellata ai bambini. È troppo facile. E poi l'amicizia è una cosa importante, non c'è neanche tra me e lui l'amicizia. Poi in campo sarà ancora peggio, penso. Preziosi avrebbe venduto il Genoa a un imprenditore, all'imprenditore Ferrero? Mai. Io personalmente a pelle dico mai. Questo è il gioco. C'è bisogno poi di fare tra maschietti, non bisogna farsi troppi complimenti. E io lo dico sempre che il derby non vince chi vuole vincere. Qui stiamo facendo, mi sembra di stare sotto da Peppino, capisce? Più alto il rischio. Sì, sarà anche tutto Peppino, però questa sera ore 20:45, io non so voi, ma io non ho preso appuntamenti, arrivo a casa, divano. Poi c'è Pierluigi Pardo e quindi come faccio a perdermela? Ma fate la Ferrero Preziosi Cam? Credo proprio di sì, credo proprio di sì. Abbiamo anche dei titoloni dedicati, degli schermi dedicati ai due presidenti. Però potreste fare il canale interattivo che si guarda solo quella, con tutto il rispetto per Genoa Samp. Però la partita più romantica del campionato, dai. È una cosa. Genoa Samp è una cosa meravigliosa, è un derby incredibile perché alla fine, insomma, poi quasi sempre queste due squadre giocano per il derby, vivono le proprie stagioni per il derby e certamente per far bene. Quest'anno c'è un derby interessante con una classifica potenzialmente già buona, soprattutto per la Samp, ma ovviamente le distanze fin qui sono minime, per cui basta una o due partite per cambiare tutto. E poi, insomma, chi è stato a Genova qualche volta, al di là del mio amore folle, totale, assoluto per questa città, chi è stato a Genova sa che cos'è questa cosa qui. Adesso davanti a me sono passati quattro motorini, tutti con la maglia, uno del Genova, uno della Samp, cioè è una cosa fantastica. Perché una città è passato anche Timo? Giampiero, no. Timossi? È passato? Passo tra un po'. Però il rumore del motorino c'era, eh? No, non è il motorino, è il classico sbuffo di Timossi al telefono, con pausa. Non mi regge un motorino. Il motorino non è un mezzo per me, Pardo. Come stai? Come stai, Timo? Ciao, hai letto più pezzo su Foucault? L'hai letto più pezzo su Foucault? Ma che fine ha fatto su Foucault, Pardo? Ma su Foucault, guarda, lo vedo bene nel centrocampo della Sampdoria, ma anche in quello del Genoa. Belli, gli anni in cui non vivevi ancora a Savona, eh? Belli, peggio da lei. Ma sapete che io non ho capito. Sapete che io non ho capito, dopo aver sentito e risentito quello scambio di battute tra Preziosi e Ferrero, se scherzavano o. No. Ma magari non lo sanno neanche loro. O si stanno un po' qui. Ma secondo me non lo sanno neppure loro. Però io contraddico subito Pardo, io stasera mi guardo Genoa Samp, non mi guarderei mai la sfida Ferrero Preziosi, non mi interessa la partita. Ma io pure, sai che poi no, sono io che guardo Preziosi, no. Preziosi Ferrero. Io guardo la partita, dai. Le cose importanti del Genoa e della Sampdoria, non, come sempre, come nella storia delle due, sono il loro presidente. Che partita ti aspetti, Pier? Intanto vediamo se riusciamo a sistemare il telefono di Timossi. Pier, e vai, che va peggio di quello di Pier, problema. Questo è per un record assoluto. È oggi è giornata. Guarda, dei record. Mi aspetto la Samp, mi sembra un filo più quadrata. Il Genoa ha qualità, poi il Genoa è vero che nel computo totale dal 1946 dietro ai derby, ma ultimamente ne ha vinti di più, negli ultimi 10 ne ha vinti 6. Con un pareggio e tre vittorie della Samp, l'anno scorso una vittoria per parte, insomma c'è stato un vento favorevole al Genoa nei derby negli anni scorsi, poi è chiaro l'anno scorso c'è stato anche Maxi Lopez. In questo momento la Samp mi sembra che abbia le spalle lievemente più larghe, ma insomma sono proprio sensazioni, sì. Sono proprio sensazioni, una squadra forse un po' più solida rispetto al Genoa. Il Genoa ha delle qualità davanti, insomma se Matri, come si è visto a Verona, comincia a segnare, Pinia, un giocatore che ha fatto bene la prima parte della stagione, insomma le qualità non mancano. Direi che la Samp ha più solidità, il Genoa ha qualche spraccio in più. Io ho previsto il pari. Tu hai pronosticato il pari. Io spero che, se pari deve essere, sia un pari un po' più divertente di alcuni derby di Genoa che abbiamo visto in questi anni. Invece tu, Timo, che derby ti aspetti? Ma guarda, io non mi aspetto quasi mai un pareggio da un derby di Genoa. Io credo, sono d'accordo con quanto ha detto Pardu sul fatto che la Samp abbia dimostrato, anche in virtù di un calendario tutto sommato fino a questo momento più agevole, però soprattutto il fatto di avere un gioco consolidato ormai da una stagione e mezza dall'arrivo di Mihajlovic. Credo che il Genoa invece debba, per fare la partita, imporre subito un certo ritmo. Si dice che io credo che ci possano essere due novità abbastanza sorprendenti. Una è quella in casa Samp, dove è anche probabile a questo punto di dire al 70% l'esclusione del capitano e anche goleador della Samp, Gastaldello, per far giocare invece Romagnoli. E poi credo che Gasperini deciderà proprio all'ultimo quale modulo schierare, se schierare il 3-4-3 o se invece far giocare un trequartista e quindi fare una squadra però di fatto ancora più offensiva, cioè escludere Kučka e non escludere i due attaccanti che in questo momento hanno dimostrato entrambi di saper fare benissimo, sì, cioè di essere in palla. Matri e Pinilla, quindi sta magari invece che il 3-4-3 con Kučka e l'esclusione di Matri, vedremo un trequartista in questo caso però che ha le spalle sia di Matri che di Pinilla. Non lo so, credo che questa potrebbe essere la chiave, proprio perché Gasperini sa che col suo gioco, col suo ritmo, può in qualche modo mettere in difficoltà una squadra più quadrata in cui sta vivendo un ottimo momento come la Samp. Io credo che questi possano essere alcuni dei temi, e credo che, al di là, abbiamo parlato prima e avete fatto un servizio bellissimo sui due presidenti, però credo proprio che potrebbero essere altre i personaggi protagonisti di questo derby. Sicuramente i due allenatori, per i quali ho una stima notevole per entrambi, direi anche un rapporto di amicizia con Gasperini, e una grande stima nei confronti di Mihajlovic, e poi i giovani, perché insomma da una parte Perin, che è un portiere che ha dimostrato di essere davvero il futuro, uno dei giocatori, dei giovani di maggior talento a disposizione del CT Conte, e dall'altro Kaka, che con Mihajlovic ha trovato una condizione e un'identità straordinaria. Non a caso credo che sia confermata, ma Pardo lo saprà meglio di me. E adesso glielo chiediamo di Conte in tribuna. Perché io svelo un segreto: oggi ora di pranzo ho chiamato Pierluigi e ho detto guarda, oggi facciamo magari così, cosa ne dici? E lui mi ha detto sto preparando il derby. Quindi ti chiedo se ad esempio sai dell'ipotesi di Gastaldello che sta in panchina per far posto a Romagnoli, o ci sveli in diretta come gioca il Genoa? No, i giocatori io chiaramente li preparo tutti convocati, tutti convocati anche perché preparati. Adesso sono 23 in panchina, quanti sono? Vengono per cui preparati, però diciamo che c'è una piccola, io perché poi stampo questo proprio della serie, chi non ce ne può fregare di meno, ma ve lo dico, li stampo chiaramente in ordine di formazione, però nei ruoli dove ci sono dei dubbi li metto tutti insieme, quindi Romagnoli l'ho messo ovviamente. Io non rinuncerei a Gastaldello in una partita così importante, così pesante, dove conta anche l'esperienza, anche se Romagnoli ha fatto cose bellissime, sembra un predestinato, un ragazzo che ha fatto benissimo, tra l'altro ha segnato il primo gol della sua carriera dopo il Genoa un paio d'anni fa con la maglia della Rosa, la seconda presenza in assoluto in Serie A. E per quanto riguarda il Genoa, sì, è difficile pensare di lasciare fuori Matri, insomma Matri sappiamo che è un attaccante che vive di, è tipico degli attaccanti, ma lui in maniera particolare vive di fasi psicologiche molto forti, in positivo e in negativo, toglierlo adesso dopo Verona mi sembra veramente un azzardo, però, attaccante poi che segna non si cambia, parafrasando. No, è anche vero che poi sono fatto anche, un turnover, no? No, però quindi segna anche Pinilla in questo momento, quindi insomma è difficile questa scelta. Sì, difficile scelta. Beato Gasperini che ha a disposizione questo tipo di rosa per questo derby. Pier ci ha già detto che finisce 1-1. Prima di salutarti, Timo, finisce? Vogliamo il punteggio? No, okay, io sono di Genova, sei in mano. ma sono di Genova, ma tu sei pazzo, non dirò mai un pareggio, ma non ti dico neanche come finisce, A perché non lo so, e B perché domani voglio tranquillamente prendere un cappuccino o un caffè in centro a Genova, quindi senza essere linciato o dai genuani o dai sampdoriani. Vabbè, allora te la diamo buona, dai. Sardo vive, non si capisce neanche dove vive. No, lui vive in treno, vive in treno, in aereo a seconda. Sulle pattine, con tutto il rispetto per quelli che vivono sulle pattine. Sì, lui si ferma per le pause. Timossi ha provato a iniziarmi al rito della fugassa, cioè della focaccia pucciata nel cappuccino. Tu a proposito di tu piombi in casa delle persone alle 2 di notte, hai anche un letto, la focaccia, e continua a lamentarti del fatto che ti sto dicendo che la mia genovesità adottiva purtroppo ha ancora questo problema, io non riesco a far pace con questa cosa della focaccia alle 3 caffè, che mi sembra una cosa... Però qui va, no? Qui tutti, giusto? Confermi? Sì, tutti fanno colazione così, no, Timo? Più o meno. Quella che voi, tu sei romano, no, Paolo? Quella che voi chiamate pizza bianca, come la chiamate? Pizza bianca. La pizza bianca, ci metti il prosciutto, delicatissima. Va bene, grazie Gian Piero Timossi. Grazie a voi, ciao Pardus. Ciao Timo, ci chiamo allo stadio, Timo. È andato in motorino. 80024. Se vedo il sosia di De Gregori in tribuna, vuol dire che c'è. Sì. 80024. C'è un amico che scrive: io guardo Chicago Green Bay, anche se sono dei dintorni di Genova. I gusti sono gusti, amico. Sì, guarda quello che vuoi. Sì, guarda, io guardo Ferrero Preziosi. Pardo e Timossi guardano Genoa Samp. Ruccio da Caserta. Ruccio. Buonasera, saluto Pardo, saluto lei. Senta, un intervento velocissimo da neutrale riguardo alla partita, anzi alla partitaccia dell'Inter di oggi. Due cose, Meazza, Picchi e il povero Facchetti si stanno rivoltando sicuramente nella tomba per il fatto che Nagatomo indossi la fascia di capitano dell'Inter, è il segno dei tempi. Sì, immagino anche Zanetti che era lì in tribuna e che sarà rimasto un po' perplesso. Esatto. Prego Ruccio. Esatto, è il segno dei tempi, diciamo. Altra cosa, pensate che l'Inter possa sostenere il centrocampo Kovacic, Hernanes insieme? Io dico di no, penso che ci vorrebbe invece una bella cerniera dietro, un Vila, Medel con Kovacic libero di inventare. E in più, secondo me, Nainggolan andava preso, costava 9 milioni l'anno scorso, ne hanno pagati 18 per Hernanes, che è un giocatore che ha imboccato, secondo me, la parabola di Cesare. Sì, però Nainggolan è andato alla Roma, non è che è rimasto a Cagliari. Evidentemente... Nainggolan è uno, è uno dei motivi per i quali Conte, secondo me, ha lasciato la Juve, nel senso che era uno che gli piaceva tantissimo, piaceva molto al Napoli che ha cercato di prenderlo, e insomma non è che Nainggolan fosse di proprietà dell'Inter l'anno scorso. È vero che c'era questo legame, diciamo, di passaporto contro IR, poteva diventare una cosa, sì, anche, ma molto lontano, molto lontano, certamente. Perché ci abbiamo anche scritto su, secondo me, eccessivamente su questa questione. No, invece sulla questione tecnica di Kovacic e Hernanes è chiaro che non è una soluzione per tutte le partite. Può essere la soluzione per alcune partite, e sembrava teoricamente che questa in casa col Cagliari potesse essere la partita ideale per vederli insieme. Poi in generale è chiaro che in generale è anche la scommessa di Mazzarri, cioè se vuoi far fare un certo salto di qualità all'Inter deve ovvio, cercare di trovare ovvio, quell'equilibrio ovvio, lì ovvio, ovvio, che poi glielo garantiscano loro, Medel, una difesa che non fa gli errori di queste 5 giornate. Vedremo. Oggi è vero tutto, però se per lungo tempo si è detto che Mazzarri l'anno scorso diceva che non aveva il coraggio di far giocare gli attaccanti eccetera, e oggi ha perso la partita contro Zeman giocandosela comunque con una squadra molto offensiva, giustamente molto offensiva, con una formazione che stamattina sui giornali sembrava logica, non è che sembrava una follia, cioè non è Benitez che fa turnover a Udine. Sì, stiamo facendo la critica del giorno dopo. Il giorno dopo, giusta, perché poi comunque noi non è che andiamo alla Biretina, non è che li vediamo tutti i giorni, quindi sicuramente la squadra, le responsabilità dell'allenatore ci sono e se le è anche prese, insomma, ha assolutamente cannato sta partita. Sì, decisamente. Traffico. Un po' che la palla a Matano, se ne ho messa, 1-1, va bene, ci sta, Buonasera a tutti. We'll be right back. convocati. Allora Pia, ti faccio sentire Benitez di oggi, così chiudiamo dicendo anche una cosina sul Napoli, che zitto zitto, squadra in crisi, oggi ha rischiato anche di pareggiarla questa partita, però piano piano è lì vicino alle milanesi. Benitez. La mentalità e il lavoro di squadra che alla fine ha pagato, e credo che 10 minuti alla fine con sofferenza, come hai detto, ma una partita che poteva facilmente, possiamo fare il secondo in una ripartenza, che non l'abbiamo fatto, e per questo è stato di sofferenza e per questo è stato importante la squadra. Che mi dici del Napoli? Io non so se è la partita della svolta, perché il finale è stato davvero una sofferenza, c'era poi Giorgio De Luca che soffriva davanti al televisore, sai, la sua passione napoletana. Certo, no, ma si è un po' rianimato dopo aver visto l'Inter, eh? Sì, ma sai, il fatto che l'Inter e il Milan abbiano perso punti oggi è un'altra occasione, non cambia secondo me la sostanza. Cioè, la sostanza è che il Napoli ha meno 8, e l'Inter ha meno 7 e il Milan ha meno 7. Cioè, questa è la fredda cronaca dopo 5 giornate. Poi, per carità, quelle due sono squadre mostruose, però ci si aspettava e si sperava probabilmente di potersi trovare di fronte a un campionato. Io me lo lascio andare, ho pensato alle sette sorelle, ma che mi pare chiaro che cinque sono disperse al momento. Sì, siamo alla coppia di gemelli. Siamo alla coppia di gemelli. Appunto. Per il momento sia Messi e domenica si vedrà. Appunto, quindi no, oggi il Napoli ha fatto una partita discreta, nel senso ha fatto una partita nella quale ci ha messo quello che ha in questo momento, un po' di cuore, un po' d'anima, e a differenza di altre situazioni non ha avuto sfortuna. Perché nei minuti finali sicuramente al Sassuolo poteva fare l'1-1, cosa che oggi non è successa, e che invece sappiamo che soprattutto contro il Chievo e contro l'Udinese poi gli episodi erano stati assolutamente sfortunati. Quindi una volta si diceva Brodino, ecco, ha preso il Brodino. Chiaramente oggi fa meno notizia, se ne parlerà di meno in generale in settimana, perché oggi saranno più calde le crisi di altre squadre, sicuramente dell'Inter per come ha perso in casa. Sì, ma anche del Milan, poi ne abbiamo parlato. Ma anche del Milan, che assolutamente dopo una buona partenza si è già completamente dissolta, e quindi questo può dare un po' di entusiasmo, un po' di speranza. Però regala anche un po' di fiato, secondo me, un po' di respiro. Sì, un po' di fiato, ma non mi sembra la squadra che abbia svoltato. Sì, non siamo alla svolta. Grazie Piera, a domani. Ciao. A domani, ciao ciclismo. E 10 metri e già si prepara alla festa Michał Kwiatkowski, perché ormai non lo possono più andare a prendere. E dunque un arrivo in solitario con un vantaggio limitato, ristretto ma sufficiente. Viene dalla Polonia adesso il nuovo campione del mondo, Michał Kwiatkowski a Ponferrada. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao, buonasera. Non ha funzionato il casino organizzato di Cassani? Il caos organizzato è stato organizzato fino a 7 km dal traguardo. Poi bisogna avere, come nello sport e nel ciclismo in particolare, le gambe. Bisogna anche avere i corridori. Cassani l'aveva detto, ma tutti gli osservatori lo sapevano. Non avevamo un uomo forte, nel vero senso della parola, per questo tipo di corse. Non per niente non vinciamo una gara in linea di livello, cioè da World Tour, dal 2008. Abbiamo degli ottimi corridori per le corse a tappe, probabilmente abbiamo i più forti corridori delle corse a tappe insieme ad Alberto Contador, che sono Vincenzo Nibali e Fabio Aru, ma nelle classiche di un giorno non abbiamo un corridore con la personalità, la forza di poter condizionare la gara e lottare insieme ai Simon Gerrans, Alejandro Valverde e quei corridori che si aspettavano e che sono arrivati, compreso appunto Kwiatkowski, che sì, non è una sorpresa, non è probabilmente il favorito, però non sbuca dal nulla perché è un ragazzo del 90, quindi ha appena 24 anni. Aveva già vinto delle bellissime corse, ricordiamo che l'ordine d'arrivo di oggi ricorda l'ordine d'arrivo di quest'anno della Liegi Bastogliegi, che a tutti gli effetti è considerata la classica più dura del mondo, la classica anche più giusta. Simon Gerrans aveva vinto la Liegi Bastogliegi davanti ad Alejandro Valverde, terzo Michał Kwiatkowski. Bene, oggi questi tre sono ancora sul podio, logicamente con Kwiatkowski al primo posto, secondo Gerrans e terzo Valverde, però ti dice anche che il percorso era duro ma non durissimo, ma dopo 250 km occorre resistenza e forza. noi corridori con resistenza, forza, con un grande spunto, abbiamo solo Vincenzo Nibali, che è arrivato a questo mondiale stanco, acciaccatissimo, aveva già un grosso problema all'anca sinistra per la caduta alle Tre Valli Varesine, è anche caduto, quest'oggi, no? Quest'oggi è ricaduto esattamente sullo stesso fianco, sulla stessa ferita, una ferita che sembra banale, una piccola abrasione, ma con ogni probabilità Vincenzo dovrà farsi operare, fare praticamente un trapianto di pelle. È una situazione, gli ha fatto anche infezione, non stava bene, e in un'altra periodo della stagione probabilmente Nibali sarebbe stato lì a giocarsi il mondiale con Valverde. Sì, non c'erano le condizioni fisiche per essere lì. I ragazzi giovani che Cassani ha giustamente portato, li ha portati per misurarli in una prova di la famosa esperienza. La famosa esperienza, speriamo che serva per il futuro. Oggi comunque non ha perso solo la giovane italiana, ha perso tutti, perché ha vinto la Polonia che dopo 81 anni vince il suo primo mondiale, una prova in linea per professionisti, e quindi hanno perso la Spagna, hanno perso la Germania di Degenkolb, hanno perso l'Australia di Jans, hanno perso in tanti anche noi, ma forse noi abbiamo una scusante, che abbiamo una formazione che si sta rinnovando e il CT Cassani alla sua prima esperienza deve comunque guardare il bicchiere mezzo pieno. Quindi possiamo andarcene da Ponferrada con un bilancio tutto sommato per quanto riguarda la nazionale maschile maggiore, con un bilancio tutto sommato con una sufficienza. Una sufficienza per l'impegno. Per l'impegno. Poi ci siamo anche un po' illusi a vedere De Marchi lì a una decina di chilometri dall'arrivo davanti in quel gruppetto, però forse era una gara tatticamente segnata in cui anche ci siamo illusi, ma possibilità non ce n'erano. Anche perché Alessandro De Marchi, che è quello che ha vinto il premio combattività al Tour de France e ha vinto due tappe alla Vuelta, ha lavorato molto prima e quindi si è trovato poi a 7,5 km quando è arrivato Kwiatkowski e gli è scattato in faccia a non avere le gambe. Sì, quando non aveva più. Quando spendi la benzina prima, logicamente. Questo vale anche per la Formula 1, non solo nel ciclismo. Certo, grazie per Augusto. Grazie a voi, buona serata. Grazie per Augusto Staggi, ci fermiamo, sì, abbiamo finito. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Roberto Scaltritti, Valeria Bernardi in regia. Noi torniamo domenica prossima alle 17, domenica importante perché c'è da raccontare la sfida tra Juventus e Roma. Tutti convocati invece torna domani a partire dalle 14, Carlo Genta per Luigi Pardo. Ciao. Arrivederci e grazie, baci e pace bene a tutti.